Melog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Scoppia in lacrime Oscar Pistorius quando in tribunale gli viene letto il capo di imputazione. Non più omicidio volontario, ma omicidio premeditato. Ma il volto di Pistorius, le lacrime di Pistorius, di fronte alla terribile accusa di omicidio premeditato, hanno istintivamente cercato un altro sipario, le mani, per coprire, per difendere, per porre un filtro tra i sogni spezzati e la realtà vestita di follia. Purtroppo è finita in tragica sorpresa e l'ha scambiata il campione paralimpico sudafricano per un ladro, e con una 9 mm l'ha colpita appunto a morte con colpi d'arma da fuoco alla testa e al torace. Non convince però gli inquirenti la ricostruzione dell'atleta sudafricano. La fidanzata Riva Steenkamp, che voleva fargli una sorpresa nel giorno di San Valentino, e viene scambiata per un ladro. Gli spari partiti. Noi pure il giorno di San Valentino recepimmo in diretta la notizia dell'incidente, allora pensavamo, di Oscar Pistorius. Diciamo, vedi che situazione sfortunata e paradossale, il giorno di San Valentino, il giorno in cui tutte le donne nel mondo fanno un grande flash mob contro il femminicidio, la violenza sulle donne, questo fulgido e meraviglioso eroe che, pur privo di metà delle gambe, è riuscito a sfidare gli altri uomini normodotati, vincendo con le sue protesi, essendo più forte degli uomini che hanno il perfetto controllo di tutto il loro apparato fisico, e quindi era un paradosso. Oggi no, oggi la situazione è leggermente diversa, totalmente diversa. Oscar Pistorius, l'eroe senza gambe che è più forte degli uomini con le gambe, ha ammazzato in maniera quasi inequivocabile, si può dire ormai, la propria fidanzata. La notizia che avete sentito al giornale radio di poco fa conferma che cominciano a dire alcuni amici che ci aveva telefonato proprio quella sera dicendo ho fatto questa cosa. Questo naturalmente ci porta a una riflessione. La grande delusione innanzitutto, ho raccolto molti, noi stessi molte volte a questo microfono abbiamo riflettuto sul caso Pistorius, su questo sberleffo vivente agli idolatri dell'ordine naturale della composizione del corpo umano. Nulla aveva di naturale inteso come questo antico e superato preconcetto Pistorius. Pistorius aveva delle gambe artificiali fatte in fibra di carbonio, lo facevano assomigliare a un ghepardo, un trampoliere. Nulla aveva più di umano dal ginocchio in giù, ma era ancora più forte degli uomini stessi, tanto che fu lungamente contestata il suo diritto di partecipare alle Olimpiadi, assieme agli atleti che avevano dal ginocchio in giù delle gambe normalmente composte. Quindi era diventato un simbolo di un ibrido vivente, di un uomo del futuro, di una profezia di come potremmo essere noi per essere più efficienti, per vincere la sfida alla velocità che ci viene imposta dal tempo contemporaneo. Abbiamo un salto nella catena evolutiva improvviso, repentino, registrabile. Noi non ci siamo mai accorti del pollice opponibile, perché ci sono venuti milioni di anni per riuscire ad avere una mano che possa stringere, ci possa dare la possibilità di essere evoluti e superiori ad altre specie. Beh, invece no, le gambe veloci possiamo averle facilmente, la tecnologia già lo permette, e quindi era un soggetto di studio. E improvvisamente ci si rende conto che è un uomo come un altro, un uomo che può essere soggetto alla gelosia, alla follia, alla terrificante violenza nei confronti di una donna, come tanti umarelli, impiegati, ragionieri, muratori, professori universitari, che ogni giorno uccidono le loro donne per stupide gelosie, per limiti tipicamente umani. Beh, qual è la riflessione da fare? La riflessione da fare è legata al fatto se in realtà una persona disabile possa essere in una nuova e civile maniera di essere considerato nel pieno diritto di poter esercitare ogni sfumatura dell'umanità. Ai disabili molte volte è negato di poter amare, l'abbiamo parlato lungamente. L'amore e la sessualità per un disabile è un concetto molto tabuizzato, come se chi fosse limitato nelle sue attività psicofisiche dovesse essere limitato anche nelle maniere di esprimersi. Ma trovo che sia giusto che il disabile non debba essere nemmeno limitato nella sua possibile scelta di essere anche il peggiore degli uomini. Questa è la mia riflessione. 800240024. Produttori del reality sudafricano di cui era protagonista la fidanzata di Oscar Pistorius hanno confermato la decisione di trasmettere il programma registrato nonostante la tragica morte della top model. Così andrà in onda onda, come previsto, la prima puntata di Tropic Island of Treasure, una sorta di isola dei famosi ambientato in Giamaica. Come potete immaginare, tutta la nostra famiglia è devastata, siamo sotto shock. Innanzitutto per la tragica morte di Riva, che negli ultimi mesi tutti avevamo conosciuto e a cui tutti tenevamo molto. Oscar, come potete immaginare, è totalmente scioccato e sconvolto. Ci sono tutti gli elementi della storiaccia. Riva Steenkamp, che era anche una avvenente modella, la persona che Pistorius avrebbe, secondo almeno le ricostruzioni, ucciso in maniera barbara, non soltanto uccisa a colpi di pistola, avrebbe addirittura trasformato la sua ridente villetta sudafricana in una sorta di hotel da Shining, l'avrebbe inseguita, spaccato la porta del bagno a mazzate dove lei si era rifugiata, avrebbe infierito su di lei. C'è tutto lo scenario da Gran Guignol, se noi vogliamo. E c'è anche questa sorta di scellerato sfruttamento mediatico della vicenda. In Sudafrica mandano subito in onda l'Isola dei Famosi, così almeno alle loro latitudini, più o meno un programma simile, in cui lei è protagonista e alla fine di ogni puntata lancia dei messaggi al pubblico, come se ci fosse già una profezia della sua tragica fine. Quindi c'è tutto il grande spettacolo. Qual è il problema? Il problema è che dentro c'è una persona che veniva considerata comunque un simbolo, ma proprio perché era disabile. Non trovate che sia giusto che non bisogna considerare un disabile una persona che non sia toccata e sfiorata alle pulsioni umane, da quelle più degradanti a quelle più gratificanti? Il disabile non deve essere messo in condizione di poter scegliere quello che lui vuole essere, avere le stesse possibilità di vivere da eroe o vivere da essere detestabile. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Inizio questa trasmissione con un filosofo della scienza. Voi direte cosa c'entra con il disabile, cosa c'entra con un problema sociale. Ma invece è molto importante, perché fra le tante riflessioni che facevo con l'amico Morigi negli anni passati, una era proprio centrata sull'essere Pistorius, che non era un disabile come tanti, era un disabile che era diventato un simbolo. Oggi come vedi questo simbolo attraverso questa nuova lettura che ne fanno i media, Stefano? Beh, io credo che abbia messo in luce l'ambiguità delle sue protesi, no? Perché fino a qualche tempo fa era il superuomo che appunto metteva in discussione i regolamenti di un'Olimpiadi e non si capiva se fosse ancora abbastanza uomo per poter gareggiare tra pari. Ora è venuto fuori l'altro aspetto, no? Quasi che è simmetrico, la pietà nei confronti di un uomo che ha commesso quello che ha commesso, però tutto sommato non ha più le sue gambe. C'è in atto un meccanismo che è lo stesso, mi funziona ora con segno positivo, ora con segno negativo, che è una sorta di esclusione, ora appunto in positivo, ora in negativo, di chi vive una menomazione. Chi è sfortunato nel vivere una vita menomata fisicamente, uso apposta questo verbo, questo aggettivo così brutto, dall'handicap, vive una serie di menomazioni ulteriori, anche quelli che la escludono dalla normalità di cui tu parlavi. Spesso ai portatori d'handicap è negata la quotidianità della sessualità, un argomento che è tabù perché sono vissuti come angeli che non hanno diritto a una vita sessuale, ma questa è un'ulteriore menomazione. Vengono accuditi con buone intenzioni, ma senza riconoscere loro quei diritti fondamentali, riconoscendo i quali la loro vita potrebbe essere, uso una parola che detesto, ma leggermente più normale. Ti dico un'altra cosa, Stefano, la cosa più detestabile in questo momento e secondo me il più pericoloso insulto alla civilizzazione nei confronti della disabilità è proprio dire: beh, sai, in fondo possiamo capirlo, considerare una circostanza diciamo attenuante, lui sai era senza gambe, era menomato, certo che è più normale che sia geloso di una persona con le gambe. Io trovo che questo sia un grosso insulto, sia lo stesso insulto che si dice solamente a un disabile, una persona che gestisce un disabile, sai è un segnato da Dio, ha avuto questa sfortuna. No, non c'entra niente, è giusto che il cammino in avanti nei confronti della considerazione della disabilità come un fenomeno che avviene, può avvenire, che deve avere la massima possibilità di vivere una vita dignitosa e adeguata appunto anche ai suoi problemi, è proprio di dire no, non c'è nessun attenuante, l'ammazzata è un assassino, nel caso che poi venga naturalmente provato in un tribunale, noi ci limitiamo semplicemente alle considerazioni dagli elementi che vengono dati dagli organi di informazione, cioè ha ucciso la sua fidanzata e quindi ha lo stesso diritto e dovere di essere considerato anche dall'opinione generale con lo stesso criterio di scelleratezza con cui noi giudichiamo qualsiasi femminicida, sei d'accordo? Io penso di sì, perché come tu sai conosco il mondo dell'handicap non tanto per mestiere ma per conoscenza diretta, e la mia esperienza è quella che questo buonismo ipocrita è la prima delle condanne che rende invivibile la quotidianità di queste persone. Quindi per quanto possa sembrare paradossale, anche il riconoscimento delle colpe di Pistorius, se saranno colpe, ovviamente questo spetterà ai magistrati, nei modi in cui sarebbero riconosciuti a qualsiasi altro cittadino, sarebbe un gesto apparentemente crudele, ma di civiltà verso chiunque sia portatore di un qualche problematica fisica, psichica, ovviamente nei termini che la legge consente, nei limiti di responsabilità che si possono attribuire a chi compie questi gesti. Nel caso di malattie psichiche è molto diverso, entrano altre problematiche che cambiano ovviamente anche l'atteggiamento della legge, ma la cittadinanza di queste persone passa dal riconoscimento nei termini consentiti delle loro responsabilità. Guarda, sarà un momento di secondo me di grande progresso l'analisi e l'iter del processo Pistorius, anche dal punto di vista dello splendore dell'atleta paralimpico. Tra poco avremo una testimonianza diretta di una persona che segue un cammino simile. Stanno facendo questa mattina gli esami tossicologici anche per vedere nel caso che ci fossero tracce di droghe, di steroidi, di alcol, di possibile doping. Facciamo cadere un grande mito anche nel mondo dei paralimpici, come giusto che sia nella sua perversione. Potrebbe esserci l'uso di sostanze stimolanti o dopanti che poi possono anche creare dei problemi di questo tipo. Sentiamo qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Il tema mi sembra chiaro. La riflessione sul caso Pistorius ci porta a riflettere ancora una volta sulla figura, la considerazione e il livello di attenzione verso la disabilità nella società contemporanea. Chiara, buongiorno. Buongiorno, io sono figlia di un disabile, a mio padre manca una gamba da quando è nato senza una gamba. Svuotando casa quando è mancato mio nonno ho trovato una lettera che gli aveva scritto quando era nato, una bellissima lettera lunga in cui gli prospettava una vita molto sola, diceva: tu sarai un artista, un musicista, un pittore, farai qualcosa di grande nella tua solitudine, noi saremo con te sempre. Invece non è andata così. Probabilmente l'hanno aiutato molto, perché gli hanno sempre fatto fare quello che l'hanno sempre trattato da normale, e lui adesso ha due figlie, quattro nipoti, guida una macchina sportiva, va in barcavela e ha sempre avuto una vita normale, felice e sportiva. E questa è la prima parte, però se questa persona un domani compisse qualcosa che viene considerato detestabile dal punto di vista dei valori umani, sarebbe ugualmente normale da questo punto di vista, non avrebbe una giustificazione, non sarebbe da considerare come una sorta di angelo caduto, quello che diciamo prima con Stefano Morigi. Fabrizio. Pronto, buongiorno Gianluca. Io ho fatto questa, prescindendo completamente dal problema dell'assenza delle gambe di Pistorius, penso a tutti coloro che sono uomini veramente eccezionali, no? Che ha fatto delle cose da campioni, Messner, Schumacher, tutte gente con caratteri fortissimi, una potenza di personalità che impedisce proprio loro di prendere anche solo in considerazione la possibilità della sconfitta. Allora, come ogni medicina ha un effetto collaterale, per loro quando una donna se ne vuole andare, penso che entri in gioco questa componente che gli permette di vincere quasi tutte le gare, che gli dice: io non posso perdere questa donna, e lì scatta poi il cortocircuito. Beh, comunque vede, ha seguito perfettamente la linea della nostra trasmissione, sta parlando di Pistorius come un altro qualsiasi grande campione, non ha messo in più il fatto che sì, però lui poverino non aveva le gambe, era un campione come un altro, si trova in un momento, poi non voglio fare analisi che non ci competono, il perché, il per come, per quanto, però lo stiamo analizzando come un grande mito dello sport che ha avuto una caduta. E noi stessi, visto l'input che abbiamo dato all'inizio, omettiamo il fatto che sia stato un disabile, questo che trovo che sia un grande passo avanti nella considerazione. Gianluca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, senta, io sentivo di intervenire perché nella sua, diciamo, introduzione al programma c'erano due punti, due aspetti che così diciamo ho sentito di dire la mia. Logico. Guardi, riguardo il punto è questo, lei ha fatto un distinguo, almeno così ho avuto l'impressione, sul fatto che degli atti, delle ferratezze, delle gelosie che possono portare a degli atti, appunto come sembra che il caso Pistorius abbia evidenziato, come che facevano parte di un mondo, di un, come lei ha detto, persone qualsiasi, un omen, un omarin, non so come ha detto. No? Un marello, sì. È un marello, esatto. Io penso che questi atti fanno parte della natura umana a tutti i livelli, tutte le persone, purtroppo abbiamo grandi persone, anche personaggi della storia ci hanno fatto vedere che diciamo le ferratezze, le gelosie fanno parte della natura umana, quindi non mi sembra ecco il caso di evidenziarlo nel caso Pistorius, che secondo me fa parte di una... Cioè, ma lei sta difendendo la categoria degli umarelli in quanto esenti da efferatezze? No, faccio parte, io penso invece che siamo tutti, facciamo parte di quella categoria degli umarelli in questo senso. Ma allora, non so se forse non mi sono ben spiegato, la differenza è proprio questa, quando l'atto efferrato è uno dei più squallidi, dei più tristi e dei più vigliacchi, un uomo che uccide una donna, avendo lui una superiorità fisica nei confronti della donna, esercita quell'unico potere assoluto che può esercitare facendole del male fisicamente, è un uomo cosiddetto qualsiasi, abbiamo un livello di considerazione abbastanza omogeneo, se lo fa una persona che consideriamo un eroe, in più consideravamo un portatore d'handicap, un disabile, quindi una sorta di angelo caduto che aveva riscattato questa sua condizione di emarginazione, quindi era intangibile nella nostra emotività da compiere atti del genere, rimaniamo delusi. E noi diciamo no, non rimaniamo delusi, perché è una ragione in più per considerare un disabile come un uomo, come un altro, che ha avuto un problema e ha operato perché questo problema gli permettesse di fare una vita come quella degli altri. Matteo Schianchi, buongiorno. Matteo Schianchi è un saggista, abbiamo già avuto molte volte ospite, svolge di attività di ricerca storico-sociale, soprattutto nel campo della disabilità. Anche lui ha partecipato agli europei mondiali di nuoto con la nazionale italiana di sport disabili, quindi conosce bene il problema. Cosa ne dice lei, Schianchi, della lettura che cerchiamo di fare questa mattina nei confronti della disabilità quando cade come concetto di integerrime, adamantina condizione umana, in cui si è come degli angeli, esenti dalla possibilità di amare, ma quindi anche di odiare? Il problema è che quando si parla di disabilità, sia nel caso di Pistorius, ma in molti altri casi, l'individuo è identificato con la sua disabilità, per cui anche quando la si cancella, come nel caso di Pistorius, poi prima o poi rientra sempre dalla finestra. E questa è una prima questione di come il tema della disabilità, chiunque abbia una disabilità è anzitutto un disabile. Poi la sua storia, quello che fa, quello che non fa, viene sempre dopo. O comunque quando poi dopo gli eroi cadono, come nel caso di Pistorius, allora ecco che la disabilità torna ad essere prepotente nella considerazione dell'individuo. L'altra questione che mi viene è che da pensare che in realtà anche in questo caso Pistorius si è comportato... ovviamente le accuse sono confermate, si è comportato, lo si diceva, come molte persone che non hanno una disabilità, come molti eroi o sportivi che credono di essere infallibili o che sono anche tormentati da questa infallibilità, da questo bisogno di essere... Che è un grande peso anche da sopportare poi per il disabile, esatto. Perché in fondo non può tradire la categoria degli angeli sulla terra e quindi deve comportarsi in maniera retta, come deve fingere che per lui non esistano pulsioni fisiche, erotiche, sentimentali, amorose, alla stessa maniera deve fingere di essere buono a tutti i costi. Sì, c'è questa considerazione, c'è anche il fatto che purtroppo in questo caso estremo, che ovviamente non riguarda tutti gli sportivi con o senza disabilità, purtroppo la cosa che dispiace è se una cosa per cui ci ho anche scritto su Pistorius, che è questo fatto di essere il postumano, su questo Gianluca ci troviamo sempre alla grande, però la cosa che mi dispiace è che anche in questo suo essere postumano, in questo partecipare alle Olimpiadi, in questo diventare una star nel senso più classico del termine, non ci sia nulla di nuovo. Questa è la cosa che mi dispiace. In un certo senso però ci rassicura, in fondo rimaniamo sempre umani, questo ammazza tutte le paure di coloro che temono le modificazioni cosiddette innaturali del corpo, anche se finalizzate al benessere, anche finalizzate alla sopravvivenza. Rimaniamo sempre umani con tutto il nostro bagaglio di umanità, anche nelle forme più terribili. Ricordo che Matteo Schianchi ha scritto una storia della disabilità, dal castigo degli dei alla crisi del welfare, Carocci Editori, quindi tra qualche istante, dopo le informazioni della borsa, affronteremo più nel profondo di come sia stato considerato il disabile nella società e come tuttora debba essere considerato. Non scordiamo che Pistorius è stato anche ospite di Ballando con le Stelle e ha ballato con la Carlucci in prima serata su Rai 1, la più nazionale popolare delle televisioni, quindi già qualche avvisaglia che fosse uomo come noi l'avevamo. Melog. La realtà condivisa. Era un'icona, un modello, un esempio per tanti. Oscar Pistorius ha cancellato tutto, una vita da sportivo esemplare, nel giorno di San Valentino. Che si tratti o meno di una tragica fatalità, l'omicidio della sua fidanzata, la splendida Riva Steenkamp, non è un unicum nel mondo dello sport. Ce n'è per tutti, dal calcio alla box, dal wrestling al football americano. La tragedia di Pistorius sembra più simile ai casi, e non sono pochi, di amore finito male. Il più recente, il dramma di Jovan Belcher, ex linebacker dei Kansas City Chiefs, che il primo dicembre scorso si sparò in auto al campo di allenamento dopo aver ucciso... Chiaro, ci sono tantissimi gli episodi di fulgi di campioni poi in corsi in situazioni del genere, ma il caso Pistorius ha una sua fattispecie molto particolare. La stiamo osservando questa mattina con persone che conoscono bene il mondo della disabilità. Stiamo cercando di verificare se questa non sia una grande occasione che abbiamo per rifare un punto sulla concezione del disabile nella società contemporanea. 800 24 00 24 è il numero per intervenire. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io penso che non ci sia nulla di scandaloso a tener conto che se una persona ha una disabilità, in qualsiasi ambito si muova, sia sportivo che professionale, cioè, giustamente bisogna considerarlo. Io non posso non tener conto che quella persona ha un problema. Questo non significa che legalmente poi non debba avere un trattamento paritario, però così come se Pistorius concorso con persone normali, insomma normali nel senso che non hanno la sua disabilità, che hanno tutte le gambe complete, giusto dirlo, certo, insomma, e che è la condizione quindi più frequente, ecco, diciamo così, di averle tutte fino all'alluce costruite così. Lui non ce l'aveva così, normali nel senso con potenzialità superiori a lui, ecco, normali in quel senso. Beh, però lui ha dimostrato che nonostante le protesi era potenzialmente più potente di noi che abbiamo tibie, carpo, metacarpo e tutte le ossa al posto loro. Quindi io glielo riconosco e dico, quella persona con la forza e volontà, nonostante il suo problema di base, è riuscito a battere anche dei normodotati. E però alla stessa maniera io moralmente posso, dico soltanto moralmente, comprendere che in certe situazioni, anche di carattere affettivo, quello svantaggio forse possa avere un'influenza. Sì, gli può rodere un po' più di un'altra persona, ma il concetto che volevo toccare questa mattina, lei ha detto, ha superato in tenacia, in forza, determinazione, potenza, normodotati, l'ha superati anche in abiezione e aveva il pieno diritto di scegliere quale fosse la maniera in cui voleva superarci tutti e l'ha fatto. La platealità del suo gesto lo dimostra, ha fatto in una maniera talmente esasperata, visiva, che in realtà anche in quello ha superato molte intenzioni di molti di noi. Gustavo. Buongiorno dottor Nicoletti, due considerazioni velocissime coi tempi radiofonici. La prima è che secondo me ho sentito alcuni servizi hanno riportato che Oscar Pistorius era una persona che aveva avuto già qualche problema di relazione prima in tempi non sospetti e poi aveva in casa un arsenale. Quindi probabilmente il personaggio Oscar Pistorius ha un po' tappato gli occhi e la bocca a tutti perché il personaggio era troppo importante. E quindi era normale prima, non è normale adesso. La seconda è che il vero eroe, secondo me, è colui che accetta i suoi limiti, i suoi problemi e diventa il più forte in assoluto ugualmente avendo accettato i propri problemi. E mi riferisco a una persona che noi abbiamo in Italia che ha accettato una situazione di handicap, che non ha ereditato da un problema di salute ma da un incidente. Io parlo di Alex Zanardi. Secondo me Alex Zanardi non ha voluto tornare a essere un normodotato, ma ha fatto del suo handicap veramente il suo atto eroico. Allora, si fermi un attimo. Stefano Morigi, filosofo della scienza, tu hai anche condotto un programma in televisione assieme a Zanardi, forse sì. Sei la persona più adatta per prolungare, dare un senso alla domanda del nostro ascoltatore. Beh sì, è quasi in questi giorni è riguardoso l'accostamento con Zanardi, ma certamente pertinente. Alex è il modello contrario, è certo quello che, come diceva giustamente l'ascoltatore, è ripartito dal suo limite e si è, diciamo così, reinventato in sport anche lontani da quello che l'aveva resa famoso. Ha vinto le Olimpiadi in handbike, ha stracciato qualsiasi record cronometrico e avversario, e certo, però al di là di questo, e Alex appunto è un esempio da questo punto di vista, c'è un'altra ipocrisia di fondo, cioè ritenere che un campione nello sport sia necessariamente, o peggio, debba essere necessariamente anche un esempio fuori dal campo. Non è mai stato così dal tempo degli eroi greci fino ai campioni recenti, e non capisco perché noi dobbiamo pretendere che un'abilità tecnica o una genialità in uno sport piuttosto che in un altro debba per questo riflettersi in un esempio di moralità fuori dal campo. Ci si lamentava quando Maradona era sregolato fuori dal campo e geniale in campo, per fare un esempio. Purtroppo è così. Siamo ancora alle investiture. Ogni attività umana dovrebbe corrispondere quasi a una sacra investitura, per cui uno deve portarsi il peso per tutta la vita di aver compiuto dei record, dell'eccellenza nel campo dello sport, come nel campo della professione, del lavoro, del pensiero. Questo vale per un saggista, per un romanziere, per un filosofo, per un poeta. Quanti poeti e quanti artisti sono stati scellerati nella vita? Ma siamo a un momento in cui si dimettono i papi, ancora ci scandalizziamo se un eroe e poi nella sua vita privata compie scelleratezze. Matteo Schianchi, ricordo autore di Storia della disabilità, dal castigo degli dèi alla crisi del welfare. Carocci, editore, rispetto a quello che diceva Stefano Morigi. No, io anzitutto sono d'accordo, perché sono stati citati anche degli esempi, ovviamente non Maradona o altri casi in cui facevano bene il loro lavoro e molto bene le prestazioni sportive, e poi dopo il resto della scena privata, umana, eccetera, sicuramente lasciava desiderare. In questo senso Pistorius, con questo caso qua, dimostra di essere completamente normale su questo fronte. Non trovi questa sia una grande occasione però per riportare fuori questo concetto dell'etereo, del welfare caritatevole di cui tocchi nei tuoi libri? Portiamo il disabile ad essere a tutto tondo un essere come gli altri, nessuno avrà questa sorta di senso carezzevole, ipocrita, che poi alla fine lo tiene soltanto ai margini della società. Sì, anche nel considerarlo, c'era un ascoltatore che diceva sì, però la disabilità dobbiamo tenerla in considerazione. Sono sicuramente, è vero, la disabilità di una persona fa parte della sua storia, così come il nostro passato fa parte di ciascuno di noi, con o senza disabilità. Il problema è capire in che senso, per esempio, se parliamo di Pistorius, se questo crimine viene dalla gelosia, se è una gelosia, diciamo, primordiale, così come accade a molti maschietti che uccidono mogli o fidanzati, oppure se questa gelosia ha qualcosa a che vedere con la sua disabilità. Questo fin quando non lo chiediamo a lui o non lo capiamo, dire sì però avevo una disabilità, ha una disabilità, eccetera, è comunque sempre mettere davanti una disabilità senza conoscerne poi dopo uno come questa cosa la vive. Lo stesso Pistorius diceva: io sono nato senza gambe, questa per me è la mia normalità, per cui non è un problema. Beh, lui ha cominciato nella maniera peggiore a affrontare questo caso. Già circolano in rete le più crudeli battute, che però ci stanno, le bugie hanno le gambe corte, ha cominciato mentendo e via dicendo. In effetti il suo atteggiamento è stato quello proprio come del più pervicace e indefesso criminale, che nega fino all'ultimo, sa che negare è la maniera migliore per uscirne comunque in qualche maniera, avere delle circostanze attenuanti. Poi dirà che non ha capito, non era, che non non era padrone di se stesso, che è successo qualcosa come se fosse un altro che l'ha compiuto e via dicendo, come insegnano gli avvocati che sia la maniera migliore di comportarsi in certi episodi. Sì, a questo punto lui cerca di salvare il salvabile, non è, in questo senso non è diverso da nessun altro. È perfetto, così finalmente l'eroe è caduto fino in fondo, finalmente non occorrerà essere eroi quando uno ha una disabilità. Barbara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottore. Ecco, io seguivo la trasmissione in macchina andando a lavorare e mi sono permessa di chiamare perché quando ho appreso della notizia, venerdì per l'esattezza, non mi sono sorpresa di questo efferato omicidio, come viene definito, perché ho sempre reputato questo personaggio, Pistorius, un fenomeno al di là di ogni ragionevole considerazione. Io credo che una persona che abbia subito degli stress fortissimi a livello psicologico per arrivare dove è arrivato e adeguarsi allo status di fenomeno, perché questo è il tema, infatti non lo considero una persona normale, ma non perché sia un disabile, perché i disabili sono comunque persone normali a tutti gli effetti, proprio perché è una persona che ha raggiunto e fatto delle cose impensabili. Ecco, questa carica di aggressività che lui deve aver per forza accumulato per arrivare a tanto, potrebbe essere degenerata al punto di arrivare anche all'omicidio. Quindi io non mi sono stupita di questa cosa. Ma nessuno si è stupito, semplicemente abbiamo fermato in anticipo quello che può essere un atteggiamento di ulteriore pietismo nei confronti del disabile. Sì, però poverino, era senza le gambe, quindi si può capire fa un gesto del genere. No, se vogliamo dare un senso di dignità di esistenza anche al disabile, non dobbiamo incrementare, dobbiamo stoppare questo atteggiamento pietistico che impedisce al disabile di avere normali espressioni della propria umanità. Se al disabile viene considerato, come abbiamo già detto, impossibile amare, non si considera che un disabile possa avere una vita emotiva, erotica, sessuale, relazionale, per lo stesso tempo non dargli diritto di avere anche una vita spregevole, di odiare e avere delle meschine considerazioni anche dei propri simili. Melog, la realtà condivisa. Il mio obiettivo è quello di vincere l'oro nei 200 e nei 400 e magari anche di stabilire un record mondiale in una di queste discipline. Se dovessi scegliere ti direi 400, però se sono in giornata positiva anche nei 200 posso fare molto bene. Sono affamato e non vedo l'ora di scendere in pista, sarà durissima. E poi dobbiamo puntare per forza all'oro nella 4%, quindi vorrei 3 medaglie e in una di queste possibilmente un record mondiale. 800 24 00 24, stiamo parlando del caso Pistorius, stiamo cercando di analizzarlo con un'ottica singolare rispetto a come lo vedo trattato in questi giorni. Noi vogliamo prendere questa occasione per parlare ancora una volta della disabilità, di un concetto moderno e contemporaneo di concepire la disabilità, e quale occasione migliore in cui vediamo cadere dagli altari la grande figura eroica e santificata dai media del disabile che riesce a superare anche le persone normodotate nella sua attività sportiva. Sì, anche questo è un diritto che va dato al disabile, di essere persona come gli altri in tutte le sue manifestazioni. Fernando, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo solo aggiungere questo: se il signor Pistorius si fosse scelto una donna normale da andare la mattina a fare la spesa, poi accudire alla casa, come tutte le normali donne del mondo, invece che prendersi... Scusi, ma qual è il concetto di donna normale nel mondo? Su lei ci sono, sì, più donne che escono e fanno la spesa piuttosto di donne che fanno altre cose. Piuttosto che una top model che viene per i soldi, solo per i soldi. Ma questo lei che ne sa? Il problema sono i soldi. Scusi, ma lei che ne sa? Sta cavalcando un altro grande stereotipo. Cioè lei va a prendersi una moglie pelosa e varicosa, così almeno, questo è un concetto molto arcaico. Un amico mi dice di trovarti una moglie brutta, almeno non ti mette le corna. Questo era il concetto. Pistorius aveva diritto a scegliere la donna che voleva, anche la più zoccola delle donne o anche la più morigerata delle donne. Perché dobbiamo dare delle categorie a imporre? Perché aveva senza gambe, doveva avere una moglie tranquilla che gli faceva la spesa? Questo è il suo concetto? Sì, il mio concetto, perché quando le donne vedono i soldi... invece gli uomini no, quando vedono i soldi diventano tutti agnellini. Spesso sono gli uomini, come Pistorius, uguali. Vabbè, uguali. Fernando, espresso il suo concetto, mi fa piacere di avere possibilità di dare libertà a ognuno di esprimersi come meglio crede. Annalisa Minetti, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno, finalmente avevo una gran voglia di dire ciò che penso in merito a... Ma tu la mattina quando ti chiamiamo vai a correre, quindi... Ho capito, sai, io come Pistorius sono un fenomeno e quindi da non vedente sono riuscita con la mia aggressività a raggiungere delle cose che altrimenti non avrei potuto. Io devo dire che ho sentito quello che veniva detto prima dalla tua ospite e non sono assolutamente d'accordo. Allora ricordo Annalisa Minetti, innanzitutto velocemente, è un'atleta paralimpica anche lei, ha partecipato alle Paralimpiadi di Londra, ha vinto un bronzo, ha stabilito un record mondiale nella categoria dei 1500 T11, io sono ignorantissimo, penso che abbia detto la cosa esatta. Record del mondo nei 1500, ho la miglior prestazione dell'anno negli 800 metri, ho un record italiano agli 4, però per quanto mi riguarda... Adesso dai, non esagerare, adesso... Io ti voglio molto bene, però sto sottolineando queste cose per il semplice motivo che non sono un fenomeno, sono una persona che si allena, semplicemente questo, che attraverso impegno, tanta volontà, determinazione e un minimo di soddisfazione propria e riscatto, sta cercando di rendere attraverso lo sport la sua vita dignitosa. In qualche modo sono assolutamente in contrasto con quello che è stato detto prima, non si parla di fenomeni, tantomeno fenomeni di baraccone, e non siamo normodotati. I normodotati siete voi, noi siamo disabili, ma diversamente speciali e abili da voi. Gianluca, tu lo sai, la disabilità la conosci bene e i luoghi comuni non ci piacciono. Ma esattamente quello volevamo fare questa mattina, noi volevamo dimostrare che in realtà finalmente non bisogna considerare le persone che hanno una disabilità persone inattaccabili da ogni tipo di sensazione, guarda, sentimento, io espressione. Io ho un bellissimo uomo, sono sposata, non mi manca niente, voglio dire, non mi sono mai posta limiti. Se una persona non si pone limiti, questa persona in realtà non ha una disabilità, ha semplicemente un'abilità diversa dagli altri. Tu del caso Pistorius hai una tua lettura personale, tu l'hai visto, l'hai conosciuto? Secondo me l'ha uccisa perché è una persona aggressiva di suo, cioè nel senso, probabilmente Oscar l'ho vissuto alle Paralimpiadi, una persona molto schiva, sempre molto in disparte, una persona molto sull'obiettivo, il suo obiettivo era in qualche modo, probabilmente lui non ha vissuto lo sport con la volontà di viverlo, di divertirsi attraverso questo obiettivo. Vedi, quando le cose si perdono di vista, quando l'obiettivo è soltanto la medaglia e tutti ti ossessionano, allora lì puoi perdere il gusto di fare realmente lo sport. Lo sport è una soddisfazione tua, ma non solo tua, quando rappresenti un paese, quando c'è un messaggio importante perché tu comunque hai un'abilità diversa dagli altri, quando fai parte di un gruppo che si chiama Paralimpico, quando fai parte del CIP, in qualche modo tu sei un messaggio di vita, e se questo è il tuo percorso, è sostenuto da questo, sei vincente sulla linea di partenza, non al traguardo. Lui probabilmente questo l'ha persa, il suo unico obiettivo era diventata la medaglia, questo nuovo record del mondo. No, vivila con serenità, se ti alleni a quel record del mondo ci arrivi, e se non ci arrivi vuol dire che quel giorno non eri il migliore. Senti Annalisa, questa può essere un'occasione però per rifare un punto sul concetto di disabilità. Tu la conosci bene, non so se questo sia qualcosa di cui vuoi parlare, ma non sei la sola nella tua famiglia a avere una disabilità, quindi hai un... Assolutamente, io ho mio fratello che ha una forma di autismo, ritardo cognitivo, ritardo mentale, come vi pare, chiamatelo come vi pare, ho mia sorella che è non vedente come me, o meglio sta diventando non vedente come me perché ha una retinite pigmentosa con degenerazione maculare, ho due genitori che sono una forza della natura, si amano, si adorano e non vedono i loro figli come qualcosa di cui vergognarsi, ma come persone da integrare nella società, non meno il mio impegno nel sociale, non meno il mio impegno, perdonami, nella politica oggi, perché mi sono stancata dei luoghi comuni. Sì, lo devo dire, oggi Minetti è candidata alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lazio con Lazzuno con Monti per l'Italia, lo dico perché fa parte della storia. Ma semplicemente, guardate, a me di poggiare, e mi piace poter utilizzare vocaboli che spesso utilizzi tu, poggiare il sedere sulla poltrona non me ne frega niente, perché probabilmente ci starò veramente molto poco. Tutti vorrebbero essere con quella poltrona, devo dire la verità. Lo so, però io la mia volontà, Nicola, scusami, Gianluca, tu la conosci bene perché siamo stati insieme a casa tua e ne abbiamo parlato largamente. Io ho bisogno di dare un volto nuovo alle persone, che volto ormai... A me interessa naturalmente per il settore dell'autismo, che è un settore che vivo in famiglia, e Annalisa in questo è molto brava. Esatto. a me mi interessa per l'autismo, mi interessa per la disabilità in genere, mi interessa per il disagio che conosco bene su tutti i fronti. Io vorrei comunque dare voce alle persone che oggi voce, Gianluca, non ne hanno, persone che sono invisibili, non perché non ci vediamo, capisci? Io sono stanca, queste persone hanno bisogno di lavoro, non di una pensione che li faccia stare di nascosti a casa. Loro hanno bisogno, come in tutti gli altri paesi del mondo, di uscire con la propria carrozzina, di uscire col proprio bastone, di essere assolutamente autonomi nella propria vita, di riavere la loro assoluta attività. Allora, mi sembra però questa occasione, vediamo se con Stefano Morigi riusciamo a dare una conclusione. Abbiamo preso tutte le possibili sfaccettature di questo problema. Stefano, è possibile fare una conclusione? È veramente questa la maniera per dare un senso alla disabilità diverso rispetto a quello finora abbiamo dato? Considerare con coraggio anche gli aspetti sgradevoli di questa circostanza? Io credo di sì, credo che sia un cammino lungo ma da fare, perché ogni forma di pietismo verso il mondo della disabilità non è una forma di solidarietà, ma è una subdola condanna. Grazie Stefano Morigi, grazie Annalisa Minetti, grazie Matteo Schianchi, ci sentiamo domani.